Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Lunedì 13 settembre, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici e bentornati su Liberi Dentro Eduradio e TV. Io sono Caterina Bombarda alla conduzione con Antonella Cortese di questo programma che fa da ponte tra carcere e città, che tutte le settimane, tutti i giorni, un'ora al giorno vi accompagna tra rassegna stampa e notizie. Ciao Antonella, buongiorno. Ciao Caterina, buongiorno a tutte e a tutti. Partiamo con la cronaca sociale, che noi chiamiamo così, che si dedica a notizie che riguardano il carcere, non solo, anche notizie internazionali. Questa settimana, per tutta la settimana, vi parlerò di un'indagine che è stata scritta su Repubblica da Carlo Bonini e Isaia Sales, Ragazzi dentro si intitola. È un'indagine sulla delinquenza giovanile in Italia e sul nostro sistema penale basato sul recupero e sul reinserimento. Tutto questo perché nel corso degli ultimi anni è cambiato molto l'atteggiamento della pubblica opinione verso il disagio minorile, in particolare verso quello che approda alla violazione delle leggi e al crimine. Non solo, è cambiata anche la considerazione dei reati dei giovani e dei minorenni da parte dei principali attori politici nel nostro paese. Caterina, in che senso? Cioè, c'è stato un cambio di sensibilità verso i giovani che delinquono, è quello che dici? Decisamente sì. Infatti, a cavallo del periodo storico degli anni 80 e 90 del Novecento, i minori e i giovani devianti venivano considerati come soggetti bisognosi di aiuto e di una guida e non solo di punizione. Mentre negli ultimi due decenni il clima è cambiato nettamente, soprattutto a causa dei mass media. I minorenni a rischio vengono considerati come una minaccia per la convivenza civile e quindi più volte è stata richiesta di risistemare le leggi sulla criminalità minorile emanate negli anni precedenti. Senti, ma di quali conseguenze parliamo? Ma in particolare dall'opinione pubblica sono stati attaccati il limite di punibilità a 14 anni nel nostro ordinamento giudiziario per quello che riguarda i minori che delinquono e il ricorso al carcere solo in mancanza di alternative e di conseguenza è stato anche, come dire, demonizzato il ricorso massiccio ai luoghi alternativi dove scontare la pena. Ma cerchiamo un po' di capire le ragioni di tutto questo. L'enfasi sulla delinquenza minorile ha occupato la scena mediatica negli ultimi decenni descrivendo il nostro paese come un paese in preda alle scorribande di giovani e giovanissimi praticamente. Però Caterina, non ci sono solo spine, vero? È vero Antonella, perché dato che questo processo di decarcerazione dei minori in Italia ha seguito un po' la linea dell'Europa, non è vero che c'è stato un aumento da parte dell'opinione pubblica di paura verso i giovani che delinquono, ma alla fine il nostro paese è stato in grado di adattarsi a quelle che sono le leggi europee sulla delinquenza giovanile. Difatti anche l'associazione Antigone rivela che il modo in cui è trattata la criminalità minorile si differenzia nettamente al modo in cui viene trattata la criminalità degli adulti in Italia, per esempio, tanto che la responsabile del Dipartimento Nazionale della Giustizia Minorile, Gemma Tuccillo, ha potuto affermare che quello minorile è il sistema di carcerazione di pena meglio funzionante in Italia. Certo, come dici tu, non sono tutte spine, non sono certo tutte rose nel sistema della giustizia minorile, ma è assolutamente esagerato descrivere l'Italia come un paese alla mercé della delinquenza minorile e giovanile. Quindi la domanda da cui partire è la seguente: esiste un'emergenza criminale minorile in Italia? Cioè un'emergenza di fronte alla quale le norme in vigore, come chiede l'opinione pubblica, debbano essere radicalmente messe in discussione? Mettendo a confronto le statistiche italiane con quelle di altri paesi, la risposta allo stato attuale delle cose è assolutamente no. Nel senso che quasi tutte le altre nazioni registrano i numeri più preoccupanti, certamente, del nostro. Pensate che nel 2018 nel nostro paese ci sono state 870.000 segnalazioni di reati alle autorità giudiziarie e di questi solo il 3,5 è riferibile a minori. Quindi è una delle percentuali più basse in Europa, mentre si rileva il 5% in Spagna, il 6,5% in Grecia e numeri molto più alti in Francia, Olanda, Svezia e Finlandia. Quindi il primo dato da segnalare, diciamo a conclusione di questa indagine che vi ho raccontato, è che Nel centro e nel nord Europa la criminalità minorile assume aspetti di gran lunga più preoccupanti rispetto a quella presente nei paesi mediterranei e in particolare in Italia. Ma ora pausa musicale, un badash, don't worry, e tra poco ritorniamo con te, Antonella. Vorrei squarciare questo velo bianco del cielo per vedere il cielo come appare davvero. Don't worry, don't worry. E sconfiggere i mostri e sussurrarti piano all'orecchio. Don't worry, don't worry. Una nonna che fa il bucato davanti a una bambina che mangia il gelato. Un ragazzo che guarda i gol della serie B. Per me la speranza c'è ancora, per me la speranza è questa. Sono gli arrivi. Gioia, confusi tra tristezza e gioia. Don't worry. Don't worry, don't worry. Guarda quanti bimbi a giocare giù in piazza, con gli zainetti hanno fatto una porta. Fanno casino, una vecchia si incazza, ma son ragazzi e quindi li sopporta. Sotto un palco vedo un mare di persone che tutte insieme fanno un coro dedicato a te, cantando a squarciagola una canzone d'amore, d'amore, che ti accompagni lungo tutto il viaggio, quando sarà finito anche il coraggio, che faccia luce quando è sera, per chi c'è stato e per chi non c'era, per chi è stato sincero, per chi ci ha sempre creduto, per chi ha soltanto promesso e non ha mai mantenuto. Don't worry. Don't worry, don't worry. Mentre rincorri il treno che parte, del mio cuore hai preso una parte. Rieccovi, bentornati su Liberi Dentro di Radio TV. Riprendiamo la nostra cronaca sociale e internazionale. Questa volta parliamo di Medio Oriente. Si torna a scuola, vero Antonella? Sì, sì, si torna a scuola in modo diverso, con tempistiche diverse. La fine di settembre segna appunto il periodo in cui nel Medio Oriente fanno ritorno a scuola dopo la pausa estiva e a volte purtroppo dopo interruzioni più lunghe dovute alla pandemia gli studenti in tutta insomma l'area. Le sfide che il settore dell'istruzione deve affrontare nella gestione delle condizioni sanitarie, come del resto Caterina anche da noi, un po' in tutto il mondo, sono ancora molto alte. In alcuni casi la situazione è resa ancora più difficile dai conflitti, dalle tensioni e dalla mancanza di risorse che segnano varie zone della regione. Antonella, facciamo una carrellata dei paesi e ci racconti se la scuola comincia o è già iniziata. Allora, Caterina, comincerei con lo Yemen. Il nuovo semestre, infatti, lì è già cominciato il 14 agosto, ma molti bambini restano fuori dal sistema scolastico a causa della guerra, purtroppo, mentre altri sono costretti ad andare a scuola in edifici bombardati, abbandonati o riadattati. Secondo un rapporto pubblicato a luglio dall'UNICEF, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia, 2 milioni di bambini yemeniti non vanno a scuola, il doppio rispetto al 2015, quando è scoppiato il conflitto. Inoltre, 2/3 degli insegnanti non ricevono un salario regolare da più di 4 anni, penso un po'. E anche in Siria, 10 anni di guerra hanno lasciato un segno indelebile sul sistema educativo. L'UNICEF a gennaio ha denunciato che più di 2,5 milioni di bambini siriani non vanno a scuola. Inoltre, i programmi e i protocolli sanitari cambiano a seconda delle zone in cui è diviso il paese. Passiamo poi a Israele. Le scuole lì hanno riaperto il 1 settembre, nonostante i timori per una nuova ondata di contagi da Covid-19. Gli alunni sono con più di 12 anni, possono essere vaccinati negli istituti durante gli orari scolastici con l'autorizzazione dei genitori. Però in molte scuole delle comunità arabe in Israele, che non hanno le risorse per gestire i test e i vaccini, regnano la confusione e la preoccupazione. In Palestina più di 1 milione di studenti è tornato a scuola in Cisgiordania e nella striscia di Gaza il 16 agosto. Ritorno a scuola il 27 settembre in Libano, dove si temono le conseguenze della carenza di carburante e di elettricità sul settore educativo. Questo significa che le persone, i genitori, non possono accompagnare i figli a scuola. In inverno ci possono essere problemi col riscaldamento. La crisi non risparmia neanche le università private libanese, che, Caterina, sono considerate le più prestigiose del mondo arabo, che sono diventate inaccessibili a molti studenti in seguito alla decisione di aumentare le rette a causa della svalutazione della moneta nazionale. Nel tentativo di accelerare il piano vaccinale, finora è andato piuttosto a rilento, in Egitto il governo prevede di immunizzare 5 milioni di persone prima dell'inizio dell'anno accademico a ottobre. E poi passiamo in Giordania, in cui la data di rientro non è stata ancora annunciata, ma diciamo che il 15 agosto circa 4.000 istituti pubblici hanno aperto le porte agli 800.000 studenti che partecipano a un programma di recupero della didattica persa a causa della pandemia. Anche in Iraq non è stato fissato un giorno preciso per la scuola, ma il Ministero dell'Istruzione ha garantito che le lezioni riprenderanno in presenza. In Kuwait le scuole private riapriranno il 27 settembre e quelle pubbliche il 3 ottobre. L'Oman ha optato per un sistema misto e dal 12 settembre le lezioni riprenderanno in presenza, in parte a distanza, mentre in Arabia Saudita 6 milioni di alunni delle medie e delle superiori che hanno completato il ciclo vaccinale sono già tornati sui banchi il 29 agosto. I più piccoli continueranno a studiare a casa almeno fino al 30 ottobre, quando si prevede che il 70% della popolazione sarà vaccinata. Stesso giorno di rientro anche in Qatar, dove le classi sono riempite al 50% della capacità. In Bahrain le scuole pubbliche riaprono a settembre, ma non è ancora chiaro se le lezioni si svolgeranno in presenza o in DAD. E in Iran le riaperture delle scuole prevista è il 23 settembre ed è stata però rimandata a causa di una nuova ondata di contagi, quindi insomma non si sa quando riaprirà veramente. Intanto Caterina, mi fermerei qui per fare ascoltare a tutti Latifa, Rafat e Duzi con il brano Kuyu. Spero di averlo letto bene perché, come sapete, non parlando arabo a volte diciamo delle cose con un accento pessimo. A voi. عندي من حين الحين عشقك من مدة وسنين وخاطر صوت هجرني أخوي سل علي يا عفاك شروق داها ينفع عيني وكل ما نويته يفكرني فيك كل ما سمعت وشوفت بعيني أخوي وجه مسخان بك وجه مسخان بك وانت شروق داها. Per la pillola di oggi continuiamo l'intervista con la dottoressa Angela Bucci, funzionario del carcere della Dozza di Bologna. Sì, adesso invece ti volevo chiedere alcuni dati, perché li riteniamo importanti per capire il carico del vostro lavoro e anche per capire quali sono le sfide che poi dovete affrontare ogni giorno per supportare tutti coloro che ne hanno bisogno. E a questo proposito volevo anche chiederti quanti erano le persone detenute alla Dozza a febbraio 2020, quindi proprio in piena pandemia, diciamo quando è scoppiata la pandemia, e quanti funzionari giuridico-pedagogici e quante sono oggi e da quante figure è composta la equipe. Inoltre anche volevo anche chiederti se sono cambiati, se è cambiato in qualche modo il approccio al lavoro e al carcere nell'ultimo anno e mezzo, considerata questa incredibile tragedia della pandemia. Sì, allora diciamo che a febbraio 2020 più o meno la popolazione detentiva era intorno ai 900 detenuti, poi c'è stato un calo perché più o meno insomma c'è stato uno sfollamento un po' ripetuto nel tempo, per cui c'è stato un calo di detenuti fino ai 750 circa e ritengo che attualmente più o meno sia il numero ancora attuale. Ecco. Okay. Esatto, di questi detenuti la maggior parte, intorno ai circa 500, sono condannati in via definitiva, la restante parte è non definitiva. Noi ovviamente siamo pochissimi, cioè la nostra pianta organica è sottodimensionata, nel senso che siamo soltanto 6 funzionari giuridico-pedagogici e abbiamo una media di circa 90 detenuti definitivi a testa. Quindi vi lascio immaginare che tipo di lavoro, cioè è un lavoro gravoso e si potrebbe insomma parecchio, quindi immagino. Esatto, si potrebbe fare appunto tanto meglio e la situazione al momento non riesce a migliorare, c'è tanto ancora da fare, indubbiamente accusiamo ancora purtroppo gli effetti di questo periodo di pandemia che inevitabilmente ha ancora ha ampliato la distanza tra noi detenuti, perché ovviamente durante, adesso va meglio perché insomma naturalmente i detenuti hanno completato il ciclo vaccinale, quindi la situazione un po' lentamente si sta riprendendo, però vi lascio immaginare durante il periodo di piena pandemia noi avevamo purtroppo dei margini molto limitati di spostamento, di movimento, per cui si sono dilatati anche i tempi e quindi la relazione educativa di cui vi parlavo prima ha subito inevitabilmente un'interruzione. Noi siamo diciamo siamo stati in questo periodo molto più burocrati, ecco, che educatori, indubbiamente la parte burocratica ci ha investito totalmente più che quella umana e relazionale, quindi posso dire che il mio lavoro è cambiato in questo senso, il mio approccio sicuramente non si è modificato perché amo questo lavoro, lo faccio con passione, vorrei farlo meglio sicuramente, però ecco insomma cercheremo sicuramente di recuperare al meglio. Va fatto tanto, secondo me, anche in termini di spazi, perché per garantire ai detenuti e a un maggior numero di detenuti più offerte possibili, più offerte trattamentali, dal mio punto di vista bisognerebbe proprio investire da un punto di vista economico nella creazione di maggiori spazi. Vi faccio degli esempi molto pratici per darvi un'idea. Noi abbiamo un reparto in particolare, che è quello di alta sicurezza, che si compone di due bracci dedicate esplicitamente appunto ai detenuti di alta sicurezza. Dalla parte opposta abbiamo detenuti che sono accusati di reati di riprovazione sociale e ex collaboratori di giustizia, che purtroppo non hanno la possibilità di svolgere attività più specifiche. Ecco, secondo me è un esempio molto semplice per dire che si dovrebbero assolutamente creare, dal mio punto di vista, proprio rigenerare gli istituti penitenziari, anche il nostro, creando degli spazi da dedicare in maniera specifica anche ad attività per quei detenuti che vi ho appena descritto, che purtroppo per ragioni giuridiche non possono spostarsi troppo all'interno del circuito penitenziario. E quindi questo è, insomma, sarebbe per esempio anche un'importante sfida da affrontare. Indubbiamente, molto ambiziosa, però perché no? E adesso godetevi qualche minuto di musica, torniamo prestissimo. Bentornati su Liberi Dentro e Du Radio TV. Continuiamo la nostra chiacchierata di oggi con il nostro ospite, Angela Bucci. Mi sentivo di aggiungere questo per chi appunto non conosce il carcere. Il carcere è un luogo di forte sofferenza, tantissima, cioè abbiamo a che fare con persone molto fragili, perché ecco, anche per tornare poi alla domanda del trattamento e quelli che sono i soggetti coinvolti nel trattamento, abbiamo tantissimi detenuti stranieri, tantissimi detenuti anche interessati da importantissime problematiche di tossicodipendenza e alcoldipendenza, quindi personalità molto fragili, alcune di loro giovanissime, che necessitano proprio di un continuo supporto e spesso proprio non si riesce, ecco, a garantire un lavoro costante al loro fianco, quindi veramente c'è tanto da fare. Noi ce la mettiamo tutta e appunto come membri del trattamento noi funzionari siamo in stretta relazione sempre con ovviamente il direttore, che ha un ruolo decisivo rispetto a quella che è proprio il parere, la definizione, appunto del programma di trattamento che vi spiegavo prima. Ci interfacciamo con i membri dell'area sanitaria se appunto abbiamo a che fare con questi casi più specifici, membri anche con i membri della psichiatria, con la figura dell'esperto ex articolo 80, con i funzionari del servizio sociale e anche con gli esponenti della polizia penitenziaria. Diciamo che la legge prevede questa composizione, che appunto corrisponde all'equipe trattamentale. Anche per oggi il nostro intervento termina qui. Ci rivediamo comunque molto presto con nuovi approfondimenti da chi vive per chi vive il carcere. Non dimenticatevi di scrivere Libri Dentro Eduradio su Facebook o su Instagram se avete domande o richieste per le prossime puntate. Ciao a tutti! Ben ritrovati, la nostra puntata oggi termina qui. Abbiamo ascoltato Angela Bucci del carcere della Dotta. Ci salutiamo, vi ricordiamo la nostra mail per scriverci redazioneliberidentro@gmail.com e a seguire, anzi questa mattina in radio vi è già stata la rubrica Lettere dal Carcere, a seguire se ci state ascoltando su Lepida all'1:30 oppure alle 17 su Teletricolore. Un saluto da me, da Antonella Cortese e da Enea Flacco. A domani. Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.